24 Mattino. Questa edizione del Fiorello Show andrà in onda in versione sobria per rispetto ai fatti di Arcore. Noi non vogliamo unirci al coro degli altri programmi con commenti ironici o critici nei confronti dei coniugi Berlusconi. Noi vogliamo rispettare la fine di un amore, la fine di una coppia così discreta, riservata, che ha sempre tutelato la propria privacy. Si parlavano come tutte le coppie del mondo, lei scriveva all'ANSA, lui rispondeva con una conferenza stampa. Loro non hanno mai messo in piazza quel che succede tra le 508 mura di Arcore. E nulla, assolutamente nulla, faceva presagire la fine di quell'amore. 7, 21 minuti, 32 secondi, 24 mattino, Luca Telese qui con voi a commentare questo passaggio di epoca. Ora, si può scherzare, come dice Fiorello, sulla fine della relazione, della storia, del matrimonio di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, ma qui c'è qualcosa di più. È un terremoto legislativo che passa anche attraverso la vicenda di Silvio e Veronica, anche attraverso il suo divorzio. Allora, la notizia che commentiamo su tutti i giornali, ovviamente, è la vittoria di Berlusconi in tribunale e addirittura l'imposizione di una sentenza. Poi Silvio dice che lui non la vorrà applicare, la restituzione di 60 milioni di euro che i giudici vogliono avvenga fra i due coniugi. Ma non è questo. Ricordatevi, nella primavera scorsa, la sentenza Grilli, che cos'era? Era una causa di divorzio di un ex ministro che praticamente chiedeva di essere liberato degli alimenti e del mantenimento della moglie. Ha aperto la strada a questa sentenza. E ovviamente c'è grande polemica, perché gli avvocati che sono più concentrati sulla tutela delle donne dicono: beh, ma attenzione, perché questo accade per Veronica Lario, che ha un patrimonio sterminato, ma le altre donne, le donne normali, saranno in difficoltà. E allora, ecco, cominciamo da qua e cominciamo dalla lettura dei giornali e poi entriamo in questi due temi enormi, il fine vita con le parole di Papa Francesco e il futuro del divorzio come istituto dopo la sentenza Berlusconi. Allora, Repubblica apre su Papa Francesco. La svolta di Francesco non è eutanasia, lo stop a cure utili. Il Papa no all'accanimento e, in claro, più avanti di tutti i senatori a vita, approvare la legge sul biotestamento. E di spalla Repubblica l'intervista di Del Rio, che apre, forse è l'ultima possibilità, a una trattativa con MDP e la sinistra. Libero! La Corte d'Appello, Veronica restituisca 60 milioni. Il titolo è proprio così. Però ci sono tre giudici dalla parte di Berlusconi. Il fondo è di Vittorio Feltri ed è proprio su questo tema. Ah, i due sportivi mi capitano così. Ehi Gigi, non è finita. Molto colloquiale. La Gazzetta dello Sport rincuora Buffon e gli spiega che torna a titolare della Juve. Szczęsny, il cantautore sensibile artista che pop con le sue parole. Sì, perché l'altro portiere della Juve, ex portiere della Roma, detto Erpomata per la sua capigliatura, Szczęsny, ha scritto un disco di canzoni. Beh, è bellissima questa cosa. Si prepara al derby con il ruggito del ninja che torna. E vedo qua in regia qualcuno che ha capito. È Nainggolan, il titolo del Corriere dello Sport. Rabbia, ninja, carica la Roma. Sembrava che fosse infortunato, invece sarà in campo domani nel derby. E giustamente il titolo di apertura del Corriere dello Sport. La Stampa: Carige a un passo dal baratro, allarme di Padoan. Il ministro lunedì: rischio risoluzione, l'Italia non può permettersi un'altra crisi. Lo troveremo anche sul Sole. Era una trattativa che abbiamo lasciato nel cuore della notte, ancora non ci sono notizie, vi aggiorneremo all'ultimo minuto utile. Il fondo conti pubblici, basta rinviare il risanamento, signori, sulla Stampa, è firmato da Carlo Cottarelli, l'ex commissario alla Spending Review. Il Papa ha lecito fermare le cure e l'apertura anche del Corriere della Sera. C'è un pezzo di Stella molto godibile di spalla, da Cadorna a Tavecchio, perdere e non andarsene, costume nazionale, le non dimissioni. Beh, questo è proprio, andiamo e ci infileremo fra pochi minuti dentro questo racconto. La guerra delle spie in rete è il fondo di Sergio Romano. Vi dicevo, è stato la mafia. Totò Riina, una foto in bianco e nero del boss dei tempi d'oro, il boss più stragista della storia in fin di vita, perché ancora non aveva una notizia, morto nel cuore della notte. Cosa Nostra riunita per eleggere il nuovo capo dei capi. Però vogliamo farvi risentire il frammento educativo. Sembra un film, sembra una gag del super cine panettone, che ne so, di De Laurentiis. Invece era veramente Riina che in aula colloquiava con i suoi interroganti, che gli chiedevano: ma lei della mafia cosa sa? Conosce, ha mai sentito parlare nell'ambiente che ha frequentato di Cosa Nostra, associazione criminale Cosa Nostra? Guardasse che io, sono avvocato, non ho frequentato nessuna criminale Cosa Nostra e quindi non conosco. La domanda è se riconosce l'esistenza. Se ne ha sentito parlare. Non ho sentito parlare. Non ha mai sentito parlare di Cosa Nostra? No. Non conosce questa organizzazione? No. Non sa mai nulla di questo? No, mai sentito parlare di Cosa Nostra, dai. Allora, l'apertura del Sole, giustamente su questa banca in fibrillazione, Carige, si tratta sull'aumento, resta l'incognita di Malacalza, titolo sospeso, il tesoro, non c'è un piano B, ma siamo pronti a intervenire. Il fondo di Alessandro Graziani sul futuro del credito, le banche e l'interesse del sistema. Ma l'altro titolo importante, banche e assicurazioni avviano l'ape volontario sul social, ipotesi proroga al 2019 in alternativa alle deroghe. Questo è un altro pezzo importante, perché si tratta in queste ore anche sull'ape social. E su Finanza e Mercati, altra notizia importantissima, i commissari e la Lufthansa trattano su Alitalia, perché i tedeschi hanno fretta, sapete perché? Vogliono comprare prima del voto. La verità: in Italia è proibito arrestare i terroristi, la cellula di Torino resta in libertà. Da 6 mesi la procura chiede di mettere in carcere 5 tunisini accusati di essere al servizio dell'ISIS, sospettati di organizzare attentati, ma l'ordinanza non viene eseguita per questioni formali. Intanto loro continueranno a spacciare droga. Avvenire, no all'accanimento e all'ineguaglianza, le parole del Papa su tutto. Il Foglio: Macron sbroglia il caso Hariri sotto il naso dei sauditi, lo porta a Parigi, questa è l'apertura. Ma il cuore di tutto è un colloquio: liberiamo la politica dal cappio dei social network, dice Marco Minniti, ministro dell'interno. Ho ancora 3 titoli: fine vita, l'apertura del Papa e il Messaggero. Il Giornale: il ricatto dello USPD, sinistra kamikaze, un j'accuso ovviamente del quotidiano di Sallusti con il suo fondo sullo Ius Soli. Stavevo di Monte Carlo, mi disse tutto Elisabetta, è il titolo del Tempo sull'interrogatorio di Gianfranco Fini, che come sapete ha parlato sul caso che più lo riguarda. Ci fermiamo per il meteo, restate inchiodati lì, perché su queste questioni dobbiamo entrare nel dettaglio. Con tanti paesi del Mediterraneo come la Russia. Mattino. E allora entriamo dentro questa vicenda, la vicenda dell'Alario, che merita un approfondimento. Insomma, la notizia la sapete, l'abbiamo detta, l'abbiamo raccontata, però sentiamo la svirgolatura, il parere che ci deve far riflettere. C'è qualcuno contrario ed è l'avvocato Bernardini De Pace, per dire una delle opinioni, convinta che vada tutelata la parte debole, cioè le donne, a suo parere ovviamente. Penalizzati madre e moglie, sto leggendo La Repubblica, pagina 11, la famiglia non è paritaria. Avvocato, questa sentenza è un salto in avanti o un salto indietro? Entrambe le cose. Riconosco la libertà femminile, ovviamente, e so che questa sentenza ne tiene atto, ma viene penalizzato gravemente il ruolo delle donne. Le mogli sono ancora la parte più debole della coppia e questo servirà soltanto a svegliare le donne. Davvero? Sono ancora molte le ragazze che vedono nel matrimonio una sistemazione? Purtroppo sì, ma spesso non per scelta, perché così va la società, il lavoro non è paritario, la cura ai figli non è paritaria, ma queste madri e queste mogli lavorano dentro la famiglia, producono reddito e quando si va a discutere un divorzio, la garanzia del tenore di vita è fondamentale per mantenere e garantire la loro sussistenza. Noi avvocate negli anni 70 lottammo molto per far passare questo principio. Ci saranno altri casi in cui dovranno essere restituiti gli alimenti? Certo, ne sto discutendo uno proprio in questi giorni. Lei dice che le donne si devono svegliare? Sì, perché davvero d'ora in poi potranno contare solo su se stesse. Stiamo parlando non più di Silvio Berlusconi, ma attraverso le parole della Bernardini di Pace, di come cambia il diritto. Ogni separazione oggi può rivoltarsi contro le donne, Maria Novella De Luca su Repubblica, e ovviamente c'è molto da discutere. Sul Messaggero c'è l'altro aspetto, diciamo, di questa sentenza shock, pagina 4 e 5, sì, perché non solo c'è lo stop all'assegno, ma c'è anche la notizia che l'Alario dovrà restituirlo. Allora, tagli a vacanze e servitù, Veronica verso il ricorso nel tenore di vita garantito, viaggio ai Caraibi, villeggiatura in Sardegna, e i suoi legali stanno preparando le contromosse, il terzo round. Stiamo parlando del servizio di Claudia Guasco a pagina 5. Addio al maxi assegno, l'Alario restituisca 43 milioni a Berlusconi. Sì, perché questo prescrive la Corte d'Appello, ha un patrimonio di oltre 104 milioni di euro, è autosufficiente. Sì, ma possiamo dirlo, è autosufficiente con 104 milioni. E andiamo dal Papa. Andiamo dal Papa perché devo assolutamente parlare di questo, di questa apertura del giornale. Insidioso insistere in trattamenti che non giovano al bene della persona. Il pezzo è di Gian Guido Vecchi e si sviluppa alle pagine 2 e 3, il focus praticamente del Corriere della Sera. Il Papa e la sospensione delle cure, la tentazione di insistere è insidiosa. Un bel fascione di fotografie che vi illustro sul Corriere della Sera vi dà l'idea dei casi che hanno fatto discutere. Welby, che citavo prima, ricordate, gli furono negati i funerali cattolici a Roma. E Luana Englaro nel 2009, Lucio Magri, il parlamentare del ex parlamentare del Partito Comunista, ex segretario del PDUP, che andò a morire volontariamente in Svizzera a novembre 2011, DJ Fabo, e ieri è febbraio 2007, per questo sapete che è anche indagato il segretario dei radicali, Loris Bertocco, ottobre 2017, in carrozzina e cieco per un incidente stradale, suicidio assistito a 59 anni. Allora, Francesco spiega, sto leggendo Gian Guido Vecchi sul Corriere, che è moralmente lecito rinunciare all'applicazione di mezzi terapeutici o sospenderli quando il loro impiego non corrisponde a quel criterio etico e umanistico che si definisce proporzionalità delle cure. Ma questo, ricorda lui stesso, lo avevano già detto anche Pio XII nel 57, l'ex Sant'Uffizio nell'80, eppure il Catechismo. La differenza nel messaggio che il Papa ha inviato ieri al meeting vaticano sul fine vita sta piuttosto nel contesto storico. Il Magistero e la Chiesa è contrario sia all'accanimento terapeutico sia all'eutanasia, però il progresso tecnologico ha complicato le cose e le domande che riguardano la vita terrena assumono, come dice il Papa, forme nuove per l'evoluzione delle conoscenze. Allora, interessante anche l'intervista, se la volete leggere ve la segnalo, di Gian Guido Vecchi a Monsignor Paglia. La morte va accettata, il caso di Welby, io celebro i funerali a tutti. E si può dire, era già previsto nel 57, si può dire, lo diceva Pio XII, però di che cosa stiamo parlando? C'è uno strappo, una svolta epocale, cambia tutto. E volevo leggervi ancora una, ecco, sulla Stampa, Luigi La Spina, il fondo, una mossa per superare le ideologie. A pagina 25 gira questo pezzo, una lezione quella del Papa sulla quale tutti, laici e cattolici, dovrebbero meditare, perché è soprattutto una lezione di grande saggezza. Da adesso non si potrà più dire, non c'è tempo per discutere, non si riesce, il fine vita è impantanato in Parlamento, no. Il messaggio di Francesco ai partecipanti al convegno del Vaticano sulla questione fine vita, dice La Spina sulla Stampa, ha il merito di scavalcare finalmente appartenenze e ideologie vecchie e inutili, perché superate da conquiste mediche e tecnologiche di un futuro, che dell'esistenza umana che insieme ci affascina e ci inquieta. Si deve affrontare il presente e la sofferenza di fronte alla morte con straordinaria concretezza e pietosa umiltà. Allora, questo è per quel che riguarda il fine vita, questa è la grande notizia del giorno, e vi dicevo che l'altro grande tema è la morte di Rina, che i giornali non hanno, come dire, fotografato ancora in pieno, perché come sapete era un'agonia ed è finita nel cuore della notte. Però c'è questo tema affrontato dal Fatto, vi dicevo, e il tema è l'eredità di Rina. Che cosa succede ora? Ecco, il Fatto dedica, pensate, pagina 2, 3, 4 e 5 a questa vicenda. C'è la biografia di Totò Occhiuto, ricordata da Pietrangelo Buttafuoco, ricordando con rabbia, era il nemico di noi siciliani, molto bello. Poi c'è un focus di Marco Franchi sul cinema. Al cinema è riuscito, la TV alla prova d'appello, il boss dei boss di Sorrentino e Pif tra le polemiche sulla fiction Mediaset del 2007, e poi il problema della successione. Vi dicevo, Messina Denaro, l'unico erede, e tornerà a riunirsi la cupola. Solo il super latitante, il pezzo di Giampiero Calapà, può comandare sui capi mandamento, potrebbe riprendere la sfida armata allo Stato, e il tritolo per Di Matteo è ancora lì. Sarà davvero così? Questo era importante, ma se qualcuno vuole un focus è su questo, ovviamente, sul Fatto. Allora, volevo andare a quel pezzo di Stella che mi sembrava esilarante, e Gian Antonio Stella parla del costume nazionale delle non dimissioni, non delle dimissioni, delle non dimissioni. Allora, Carlo Tavecchio, l'ercolino sempre in piedi, presidente della FIGC, il Corriere, prima pagina. Nonostante l'accumulo di gaffe e di accordi osceni con le società dell'azzardo, ha scelto il suo inno personale, ispirato a una canzone di Jovanotti, lanciato anni fa da Striscia la Notizia. Io no che non mi schiodo, non mi schiodo, io no che non mi schiodo. Vabbè, insomma, avete capito. Per celebrare l'inamovibilità di Giulio Andreotti. A dispetto dei cori di vattene eseguiti all'addio dell'Italia ai mondiali, lui no, non si schioda. Anzi, se non fosse stato scelto come capro espiatorio, non si sarebbe neppure schiodato Giampiero Ventura. Segui a pagina 30. E quelli che non si dimettono mai, no, ovviamente. Perché mai dimettersi, dice Stella, per una banale catastrofe, parole di Tavecchio, che non accadeva neanche da 60 anni. Per carità, i due sono in buona compagnia, l'Italia non abbandona, da Luigi Cadorna a Francesco Schettino, gli uomini disposti ad assumersi dignitosamente le proprie responsabilità. Più facile trovare quelli che se ne infischiano e magari ci ridono sopra. Il più spiritoso in un'intervista a Chiambretti fu Francesco Cossiga. Come devo chiamarla, presidente? Perché lei si dimette continuamente, chiese il conduttore. Io non mi dimetto, minaccio, rispose quello. Mi deve chiamare presidente incombente, anzi mi chiami semplicemente incombente. Grande Cossiga. Tesi inconcepibile per statisti di stampo austro-ungarico come Alcide De Gasperi. Le dimissioni non si preannunciano, si danno, ma piuttosto praticata da quelli della stirpe Montecitoria, più portati tuttavia, come ricordò qualche anno fa Filippo Ceccarelli, per la tattica di quel personaggio di Achille Campanile Celestino, ingombrante e inopportuno ospite della famiglia Gentilissimi, che gliene combinava di tutti i colori. Ma al dunque concludeva ogni sua avventura con un eloquente: e allora resto? E loro restano, restano sempre. Questo era Stella sul Corriere della Sera, c'è un intero paginone fitto di esempi, di aneddoti, di protagonisti eccellenti. Ce l'eravamo dimenticati quelli che sono stati sull'orlo delle dimissioni: Filippo Mancuso, Antonio Di Pietro. Insomma, se volete divertirvi, leggete questo pezzo. Strade, e torniamo dopo con il Money. Io gli voglio bene, ma ambulanza. 24 mattino. Datemi gli accordi gilmuriani, datemi questo arpeggio che è entrato nella storia, il registratore di cassa, The Dark Side of the Moon, l'album più venduto della storia del rock. Allora, vi dicevo, si trattava nella notte per l'aumento di capitale di una delle più importanti, di uno dei più importanti gruppi bancari in Italia. Di nuovo c'è una sofferenza, di nuovo c'è un allarme. E allora il fondo di Alessandro Graziani sul Sole 24 Ore, le banche e gli interessi del sistema. Per il salvataggio di Banca Carige sono giorni e forse ore decisive. In ballo non c'è solo il futuro della storica banca di Liguri, nell'inevitabile bagarre politica che il caso Genova potrebbe scatenare nei lavori della commissione di inchiesta parlamentare sulle banche. In discussione, per poche decine di milioni di euro, c'è il futuro dell'intero sistema delle banche medie italiane, proprio nella fase in cui si segnalava segnali di miglioramento. Se Carige dovesse finire in procedura di resolution secondo le nuove o vecchie punto interrogativo regole dell'Unione Europea, finora mai pienamente applicate né nel caso di MPS né in quello delle due banche venete, anche gli aumenti di capitale pianificati o in arrivo di altre medie banche sarebbero a rischio. Riprende, si riapre un allarme sulle banche e sull'intero sistema Italia che ormai anche le agenzie di rating scutevano come visibile all'orizzonte. Questo è il fondo del Sole 24 Ore di Graziani di oggi ed è da leggere in grande silenzio, perché questo tema è di nuovo il tallone d'Achille dell'Italia. La soluzione del caso Carige, scrive Graziani ancora, dipenderà nelle prossime ore dalle scelte di una grande famiglia di imprenditori, Malacalza, e da tre grandi istituzioni finanziarie come Generali, Intesa e Unipol, esposte complessivamente per circa 60 milioni da convertire in bond o equity. Decideranno di sottoscrivere l'aumento dopo aver salvato con i fondi dei propri azionisti i risparmiatori di 10 banche da Truria in poi? Gli investitori internazionali hanno diffidato le grandi banche italiane dalla dispersione dei capitali per la tutela del sistema. I valori in campo sono minimi in assoluto e addirittura risibili per le tre grandi banche d'affari che si erano impegnate per il buon esito delle garanzie. Ma dalle scelte di queste poche istituzioni dipende non solo il futuro di Carige, ma in buona parte del sistema finanziario italiano. L'ho letto in integrale questo editoriale perché capirete bene che c'è il rischio di un effetto domino. Non è il problema di quella sofferenza, di quella banca, di quell'istituto, è il problema di tutti gli istituti. Allora, banche e assicurazioni avviano l'APE volontario e vado a pagina 5 per il pezzo di Colombo e Rogari. E qui c'è la trattativa, ma si tratta veramente nome su nome in queste ore su chi deve essere inserito nella riforma dell'APE social. Ecco qua, in alternativa alle deroghe, nuova ipotesi allo studio del governo, la CGIL dice, facendo i conti con i suoi uffici studi, che l'allarmamento gravosi, ce lo raccontano Davide Colombo e Marco Rogari, sarebbe solo per 4.000 persone e non per 15.000 come dichiarato. Domani a Palazzo Chigi, round in salita, dicono i due giornalisti del Sole, all'incontro conclusivo sulle pensioni la proposta finale di Gentiloni ai sindacati. Il posticipo dell'ammortizzatore sociale viaggerebbe con quello dell'APE volontario. Quindi capite che domani questa telenovela si chiude. Vi leggo il parere di Boccia, sempre sul Sole, a pagina 5. Welfare, integrazione fra pubblico e privato è l'unica via, lo dice il presidente di Confindustria, per uscire da questa crisi. Può essere un punto di partenza per allargare la platea e costruire un meccanismo di collaborazione fra pubblico e privato con cui sviluppare un nuovo welfare. Allora, vi ho detto tutto? No, non tutto, perché sempre al Sole e dalla Stampa c'è il tema che accennavo leggendo le prime pagine. Commissari e Lufthansa lontani sul piano d'Italia. Divergenze, prospettive industriali e fattore tempo, e il nodo è che i commissari vogliono vederci bene perché, diciamo la verità, questa gestione non sta andando male e non vogliono svendere la società, mentre invece i tedeschi hanno fretta, vogliono comprare subito. E qual è il nodo? Ce lo spiega Pogliotti, Giorgio Pogliotti sul Sole nell'apertura ai finanzamercati. I commissari guardano anche oltre le offerte vincolanti, come hanno spiegato i sindacati. I tre commissari ritengono che per tutelare un interesse generale, cioè all'Italia, possono avere potere di incontrare altri possibili candidati, e fra questi spuntano il fondo americano Cerberus, che ha annunciato l'interesse per l'acquisizione dell'intera compagnia. Quindi, signori, Alitalia non è svenduta come sembrava pochi mesi fa, ma è ancora un boccone appetibile. Mitragliamo? Analfabeti, pagina 23, La Verità. Ogni tanto ci sono queste notizie che per me sono la fotografia del paese, sono i dati che dovremmo conoscere noi cittadini evoluti per capire dove siamo. Allora, la Campania e la Sardegna sono le regioni italiane con il maggior numero di ragazzi che hanno abbandonato la scuola e l'obbligo precocemente, cioè prima del diploma, 18% contro una media nazionale del 13,8. Il fenomeno si applica anche alle scuole superiori, dove il tasso di abbandono, sto leggendo La Verità, nelle due regioni è pari al 5% rispetto a un dato italiano del 4,3%. Elevata anche la percentuale di minori in povertà relativa, 27,5% contro il livello nazionale del 22. Solo una scuola campana su 4 ha una palestra. Signori, questa anche è l'Italia. Allora, il tempo si indigna perché sta arrivando una cosa che riguarda Roma, ma Roma sapete che la Raggi Salasso Blu fino a 1000 euro l'anno. Ecco la stangata: la Raggi vuole combattere duramente, ma allora accadrà anche a livello nazionale, ci si chiede, le auto private con l'abolizione del permesso per la seconda auto, cioè parcheggiare il mezzo costerà 840 euro, dice arrabbiato il quotidiano diretto da Gianmarco Chiocci. A brindare saranno solo i garage privati. Lotta all'auto, non ve la potete permettere, bisogna pagare. Allarme cinghiali. No, dici, ma siamo un paese civile? E no, perché bisogna stare attenti, le specie protette, e c'è questa nuova minaccia, i cinghiali che incombono, si riproducono e ormai si muovono minacciosi. Sono entrati sulla 7 tra Groppello, Cairoli e Bereguardo, fermandosi al buio nella carreggiata, in mezzo alla carreggiata in direzione Milano. Distrutta un'auto, due hanno investito gli animali, una si è ribaltata e le cinque persone coinvolte sono vive per miracolo. Ma questo vi dice che bisogna sparargli, signori, bisogna sparargli a questi cinghiali. L'ultima perla che vi do sono le uova, le piccole fluttuazioni che ci interessano tanto. Ebbene, stanno salendo vertiginosamente i prezzi delle uova, sempre sulla Verità, l'allarme uova, salgono le quotazioni e adesso veramente si arriva a un aumento di 0,50 centesimi. Ci fermiamo e torniamo fra poco. Cani, gatti!